Da tempo ci siamo resi conto tutti che i sondaggi, più che ratificare una situazione di fatto, sono organizzati appositamente per originarla. Se dici che una cosa ha avuto successo, è il modo più sicuro per far sì che il successo le arrida davvero. Orbene, grosso modo mi sembra appartenere a quest'ambito di problemi anche la questione delle risate e degli applausi televisivi. Risate e applausi che, in quanto tali, come manifestazione antropologica, designano pur sempre l'espressione di un'opinione. Avrete presenti certi telefilm americani di stampo presuntamente umoristico. L'attore dice una battuta e viene sommerso dal rumore di fondo costituito da un'oceanica risata. Il testo stesso per i comportamenti degli altri attori sembra prevedere le pause sufficienti e necessarie affinché il parlato successivo non interferisca con la risata precedente. Oppure non so se avete presente quelle trasmissioni interrotte spesso dagli inserti pubblicitari. Allorché lo spot finisce e l'immagine torna in studio, gli spettatori applaudono. Applaudono esattamente come se qualcuno avesse detto o fatto chissà quali meraviglie. Insomma, siamo soggiogati all'arbitrio di un sistema ideologico e dovremmo ridere e dovremmo applaudire assecondando il gusto di qualcun altro, ma neppure di un qualcun altro, bensì di un qualcun altro che, chissà perché magia, si arrogherebbe il diritto di rappresentare tutti i qualcun altro possibili e immaginabili. Sulle prime la risata registrata e distribuita come rumore di fondo potrebbe essere salutata come magari anche come un positivo segno di legame fra lo spettacolo televisivo e la vecchia cara struttura teatrale da cui questo applauso poi proverrebbe. Sulle prime anche l'applauso al ricominciare di ogni fase della trasmissione potrebbe essere interpretato, che so, come un gioioso segnale di gratitudine per quanto i nostri eroi avrebbero fatto al passato, nonché di stima per quanto presumibilmente faranno nel prossimo futuro. Sulle prime. Ma quando si rifletta sull'artificiosità della cosa e sull'espropriazione di cui questa artificiosità si rende colpevole, nessuna scusante regge più. Il sorprendente che ci spinge al riso e l'ammirevole che ci muove all'applauso, una sorpresa ed un'ammirazione che dovrebbero sgorgare da un io partecipe, ma pur sempre profondamente io, il sorprendente e l'ammirevole, sono tolti alla nostra patria potestà per immolarli sull'altare di una banale reazione di massa. Privati di ogni responsabilità morale, siamo ridotti a fantocci cui non solo è lecito, ma è d'obbligo programmare le emozioni. Chi legifera sulle televisioni dovrebbe cominciare da queste nefandezze. Chi blatera sulla morale altrui dovrebbe cominciare dai nodi quotidiani in cui alla persona vengono negati per coercizione i primi gradi dell'esperienza di libertà e di autonomia. Chi sproloquia di politica e di Stato democratico dovrebbe intanto muovere un dito almeno contro l'invadente tecnologia della soggezione. L'impressione è invece che tutti costoro godano nell'avvalersene, come di una garanzia illimitata per la propria autorità. Le risate, gli applausi, come i mondi tarpati che esprimono i sondaggi, non sono mai falsi a sufficienza perché non generino, nella ricorsività del televisivo, nell'autoreferenza delle comunicazioni di massa, non generino risate vere, applausi veri, fede cieca in altrettali mondi tarpati, ove ogni alternativa è di principio un puro vaneggiamento e dove qualsiasi opzione umana si traduca in un atto di consenso.